Saluto che mi ricordo. È che per farlo bisogna essere in tanti, bisogna farsi ascoltare, bisogna convincere gli altri. E io ci provo, sì, ci provo. Ogni volta che vedo una situazione propizia o un gruppo che si muove, mi dica loro, mi metto in prima fila. Però io ho tua, davanti al mio soffuso, davanti alla mia ingiustizia. Io mi rivolto perché è giusto, perché è sano ricordarsi come ogni madre ma ogni figlia di questo mondo meraviglioso. Nel spermatozoo, mi immagino a me quando ero spermatozoo là dentro, tutti compressi, tutti uniti, si batte. Voi sapete come funziona, no? È una gara. Io mi immagino a me spermatozoo, mi immagino sbagliati in prima fila ad incinarli. Forza ragazzi, oggi o entriamo tutti o nessuno. Quando mi fanno città l'uomo. Una cellula, due cellule, quattro cellule, otto cellule, due alla diciassettesima, due alla ventitreesima. Eccomi. Alzi, destra, le mode, deve fare dritto, questo per chiesa, il catechismo, mangia tutto e fermo con le mani. Dai, letta mamma tua. Sì, sì. Tu devi far sempre quello che ti dicono mamma. E papà? Sì. Sempre quello che ti dicono mamma e papà? Sì. Però... Però che? Stai offendendo mamma tua? Sì. Cioè no, no. Ma sempre quello che ti dicono? Ma perché? Perché sono tuo padre? Ma che vuol dire? Preso mamma tua. Da piccoli sperimentiamo la dittatura. Forse per questo che poi da grandi ci sembra non normale essere comandati. Io da piccolo, da bambino, avevo una voglia di rivoltarmi, un desiderio di rivolta che ha macerato dentro me per anni. E poi è per questo che ho fatto sempre questo che sono io, cioè a qualcuno devo dare colpa, no? E però adesso per dirlo a tutti, il mestiere di genitore è difficile e io non penso aspettarlo, no, veramente non voglio parlare di rivolte verso il genitore. No, la prima rivolta di cui voglio parlare è un'altra. Sì, però bisogna andare un po' più avanti qui nel tempo. Sono dovuto crescere, sono dovuto arrivare a quell'età là, sì, hai capito padre? No, a quell'età là, hai capito? A quell'età, ecco, gli ormoni ti scoppiano dentro. E anche fuori, però con le ragazze ancora, non sai bene che fare. Io con le ragazze, o comunque anche con i ragazzi potrebbe essere, ma io con le ragazze, andando così, insomma non sapevo bene che fare, non sapevo davvero che fare. E allora che facevo? Guardavo. Seguivo. facevo. Non voglio cantare, sono contenta lei di volere la canzone. Io mi rivolto per seguire gambe che fanno sognare, mi rivolto perché gli occhi non li riesco a distaccare. E mi rivolto quando vedo un viso un po' particolare, che da dietro si lascia rimirare. Poi c'ha una voce. Sono Mirko Bello. È pure bello, sì. Ho capito, con quel cognome non danno tutti gli altri essere brutti. Oggi ti faccio aspettare fuori il mio ragazzo. Allora sono andato dai miei compagni di classe. Ragazzi, dobbiamo unirci. Mirko Bello oggi mi aspetta fuori all'uscita. Allora, per quello c'è la delle smetti da far tre potente volarti. Con l'altri. Grazie ragazzi, vi spiego come andrà. Andrà così, sì. Noi avanzeremo a braccetto di fronte a lui e gli diremo: basta con i soprusi, noi adesso siamo uniti e lo vedremo andare via. Mogio, mogio. Sono Mirko Bello, ho sbagliato. E trionferemo davanti all'ingiustizia. Mario, noi ti volevamo bene. Bene, bene. Però ci devi andare da solo, se non ne vale. Come solo? Mario, vada, che se te li dico, noi perdiamo i soldi. Oh, ma la mia non ha puntato incontro, eh? Noi gli abbiamo scommesso, Mario. Io invece contavo. Vai, tutto verificato lo stesso. Fai un gioco di gambe. Oh, te ne ha data, al momento opportuno. Un pugno alla Mario. Eccolo Mario. Hai offeso la mia ragazza. Ma dove ho finito? Tutta la scuola mi l'ha data. Almeno fossi stato zitto, ma la sarei risparmiata sta figura di... Ma io la soddisfazione di vedere mezzagliato per terra non te la do. Mi rialzo subito, perché non prendo i piedi a terra, spingo il baricentro in avanti, la fisica è dalla mia parte. È il fisico, è dalla sua. La soddisfazione di vedere mezzagliato per terra, mi rialzo subito, non prendo i piedi a terra, spingo il mi sa che ha preso. Te, questa è la parte tua. Oh, da parte mia. Noi abbiamo smesso, ma no, su Mario. Era la prima volta che la vedevo. la ragazzina che si nasconde le spalle in petto. E... io ero così curioso. E... che cosa nascondeva? La ragazzina che si nasconde le spalle in petto. Prese tutto, ma proprio tutto il mio cuore. Lo mise accanto al suo cuore, timido e tenero. E con lui tanto piano andata al camerò. Ma guarda, io veramente ero solo curioso, eh. sono il rappresentante. Le università pubbliche devono essere competitive con quelle private. Ma non essere rappelli, ma gli esami sono troppo difficile. Gli studenti che escono dalle università pubbliche devono entrare con forza nel mondo del lavoro. Ma non essere rappelli, io dico facciamo un appello a settimana. Ma gli esami devono essere semplici, crocette per tutti. Io ho pensato a un modello di università nuova. Vorrei scrivere una lex universitate. Che? Fatti Dio. Sì, un'università nuova, senza esami, senza voti. Soltanto un libero scambio di saperi. I gruppi di ricerca accolgono gli studenti interessati, li accompagnano in un apprendistato. Che si nasconde le spalle in petto e poi non viene l'occupazione. Sì, sì, deve studiare, c'è degli esami importanti. Oh, e che sono lei deve studiare? Io ne devo laurea? Sono il rappresentante, non vengo all'occupazione oggi, sono sotto tesi. Oh, ma vedi che non c'è tempo da fregare, non c'è tempo da perdere, si è laureato un amico mio. Dovresti farlo anche tu, Mario. No, io non lo faccio, io ci resto all'università. Scrivo. No, la tesi. No, la lex universitale. Io so, sono andati tutti, ma la scrivo per i nuovi. Per i nuovi, sì, per i giovani. Per quelli che continuano ad affollare questa università. Ma stai a dire. Sì, fronte di gente che pensa, pronta a cambiare questo mondo. Quella è gente che non c'ha niente da fare. E niente da perdere. Ma è proprio per questo che sono liberi. Di non impegnarsi fino a fondo. Hai capito? Ma che ci stai a fare all'università? Ma io ci sto a fare all'università? Tanto più che anche la donna che si nasconde le spalle in petto. Nada. Lei. Sì. Sei laureata. Lei. Adesso tutte le mattine, alle 7, l'accompagno al treno metropolitano con il quale va al lavoro. Ah sì? Che fate? Spiegatemi tutto, che è successo? questo. Stanno su presso il treno alle 8, ma noi siamo là. Succede che poi sta il treno alle 8, e non sei ferma, ma noi lo facciamo fermare uguale. Ci hanno fatto pure la modalità annuale, questo scempio. Come se fosse facile, lo facciamo pure. Come se fosse facile, gli al posto sul treno. Io ci posso fissare un'altra mano. Dove ci sono i problemi concreti? Dove la gente è pronta a combattere nei loro diritti? E questi sono gli altri. Bene, bravi! I diritti dei cittadini non si toccano! Sei forte tu, eh? Latte insieme a noi! Tieni, un tamburello, prendilo! 2 euro. Come 2 euro? Gli schietti angleri di crack e tutto per i manifestanti! Senti, ma perché non ci mettiamo sopra le rotaie del treno? Se il treno lo blocchiamo veramente? Ci mettiamo sopra le rotaie del treno, allora il treno lo blocchiamo sicuramente, eh? Che dire? Ma che ti sei messo in testa? Noi facciamo quello che dice lui. Sono il rappresentante, restate sopra la panchina. E no, basta rappresentanti, tutti quanti ascoltati! Dobbiamo metterci sopra le rotaie del treno, se lo vogliamo blocchiamo veramente! Restate sopra la panchina. Tutti quanti sopra le rotaie del treno, dobbiamo bloccare il treno, allora tutti quanti ci mettiamo adesso sopra le rotaie del treno. Restate sopra la panchina, non perdete la calma. Tutti quanti sopra le rotaie del treno, dai, tutti quanti insieme, ci mettiamo sopra. Non perdete la testa. Sopra le rotaie del treno! Intanto il treno stava arrivando, avanzava lentamente perché non voleva delegare l'alba ai manifestanti. I manifestanti però aumentarono il casino e cominciavano a dire al treno: fermati, fermati! E io dicevo ai manifestanti: sopra le rotaie! I manifestanti al treno: fermati! E i manifestanti: sopra le rotaie! I manifestanti al treno: fermati! E i manifestanti: sopra le rotaie! Fermati! Mentre ci davo cucinato gli altri buttassi sopra le rotaie, io ci sono cascato sopra le rotaie e il treno ha inchiodato! Il treno si era fermato! Il treno si era fermato! Aveva aperto tutte le porte! I manifestanti erano entrati fissosi dentro il treno! E dal treno era sceso il controllore! Anzi, a controllora. E l'ho vista del treno. Allora, ma che ti sei impazzito? Ma che ti sei messo sopra le rotaie del treno? Ma che ti sei messo sopra i binari del treno che guidavo io? Ma io da solo! Quanto sei stato grosso! Quanto mi piaci quando sei così grosso! Tiè! Oh. Io intanto ero rimasto sulle rotaie, però poi mi sono venuto a prendere. E guardi, mi hanno portato dentro! Sì, in quest'ora mi hanno multato per l'attraversamento illecito di viale e interruzione pubblico del vizio! Vizio. Ma Dio, scusate. Mamma mia, viene proprio da rivoltarmi. Cioè, questa stessa sensazione ce l'ha ultimamente anche la donna che si da sopra le spalle utenti, sì, la stessa identica. E... Bye. Vai, vai, vai, vai. Posso crescere mio figlio nel caos, nello smog, nella confusione? E no, non posso, tanto qua non c'è più via d'uscita, non è più possibile niente, non è concepibile niente. No, non c'è più via d'uscita, io voglio andare in campagna. Io voglio costruire una comunità. Sì, una comunità autonoma. Voglio fare un esempio. Sì, costruiamo un esempio che possa essere da esempio per chi vorrà prendere esempio, per essere da esempio a chi saprà prendere l'esempio. Poi, esempiandosi a vicenda, forse possiamo costruirla, la ricotta, sì, la ricotta, pure, con la ricotta. Con la ricotta, anche, non solo con la ricotta, il formaggio fresco, il formaggio stagionale, tutte. La ricotta, potremmo costruirla, quella prova, quella concreta, quella che si manda. Che bello! Io e i miei amici abbiamo trovato un casale di campagna. Una porzione è già abitabile. Sì, sì, e c'è una piccola cascina. Coltiveremo la terra. No, basta caos, confusione. Alleveremo gli animali, coltiveremo la terra. La mattina ci verrà a svegliare il gallo e la sera saranno le stelle a darci la buonanotte. Che bello, io e i miei amici, sì. No, dimmi. Tutte le Montessori vanno a casa mia. Tutte quante, ma tu? Ah, ma in campagna, stanno in campagna? Qui è rimasto. Ah, vedi, vedi, appunto, dicevo. Sì, eccomi. Eccomi pronto. Io e i miei amici. Sì, un piccolo impianto fotovoltaico per un po' di corrente che la necessaria, ma la macchina non voglio usare più. Mi sposterò a cavallo se necessario. Sì, le vacche, il burro, il latte, il formaggio. Realizzeremo il paradiso in terra, lassù, lassù nei verdi pascoli, la conoscete? Parlavo proprio di un paradiso. Posso domare? Le arance sono rossi, i limoni sono grossi, lassù, lassù nei verdi pascoli. Ma non c'è nessuno? E anche quelli un po' più grandi? Forse già allora la conosci, un po' più grandi. Tu invece come ti chiami? Lo so scordato. Marco. Marco, è vero. Ma allora lo scegli. L'album di indiano dell'André, hai visto? Ma si parla proprio di un paradiso interno. Andate ad ascoltare, che se poi capite riferimento. Papà, ti fa giocare, papà, c'è da fare lassù, lassù nei verdi pascoli. Ecco, è arrivato pure Mario. Dovremmo far mercato tutte le settimane. Tutte le settimane? E poi ci fanno i derby, anche i volantini. Un po' di pubblicità, Mario. Poi bisogna trovare i punti giusti, frequentati bene, dei cimiteri. Perché parlavo se chiaro. È archeologica per chi c'ha i soldi. Per forza ideologico. Va fatto, Mario. Ma che indicazione la faccio tenere io? Ma scusa, dunque voglio fare il mercato tutte le settimane. Dobbiamo produrre tanto, invece noi. A mano! Ma come mano? Ci sono le macchine! Hai ordinato quelle più grosse, quelle più potenti, quelle più moderne, avanti, le creatrici, c'è l'impianto di irrigazione da fare paura! Hai pensato a tutto, Mario! C'avevo un finanziatore! Ma io non voglio passare la vita a pagare un mutuo, a pagare soldi che non abbiamo, ma per quale motivo? Invece con un modello di vita semplice, ragazzi, potremmo non avere bisogno di nulla. Ma Mario, non potremmo essere fuori dal mercato. E il mondo si cambia da di dentro! Allora, il fatto è un po' poetico, Mario. La poesia in Spagna. Che ce lo fanno? Niente fame? Ma no, dico che se ognuno di noi coltivasse un fazzoletto di terra, io coltivando un mecenato camion, carico scarico, assieme a me. Pure il camion c'hai, no? Oh, abbiamo un'abilità, mi sembra ovvio. E io ero un ottimo in personale. In che appalto lì ci sta? Te, Mario. Ti piace tanto. Ma non ci voglio stare che si prenda, non mi interessa. Guarda che ti mettiamo altri lavoratori, tutti migranti, gente che c'ha bisogno. O essere venuti con altre categorie svantaggiate. Ma che state a dire? Ma di che state a parlare? Noi non riusciamo più neanche a concepire un'ideologia diversa da quella del consumo, del commercio, della produttività. Ah, Mario, guarda che scesa di dentro fino al crollo. Oh, ma io non acquitare il progetto, eh? E chi è il finanziatore? Non per questo, basta! Mi piace non lavorare con gli immigrati. O semplicemente ti piace la lavorare! Oh, che fanno? Mandano a buttare tutto il progetto! No! E il progetto si farà uguale! Quanto sei grosso! Buona, ferma! E il progetto si farà uguale! Sì, io ci sto! Oh, così mi piacete! Dai, facciamolo senza... Ma... l'ultimo. Forse doveva pensare che sta bene, non basta niente. Perché stavo ancora progettando, ecco, così poi si chiamano in forza, così. Stavo ancora progettando queste luci, così. Quando anche l'ultimo è andato alla scuola, mi sono potuto dedicare a me stesso, sono tornato a avere un po' di tempo per me. Ed ecco pronta proprio per me una raccomandazione. Sì, una lettera di raccomandazione per un lavoro part-time e conciliabile con i miei impegni di genitore. Sì, vabbè, spero ce ne sono tanti. Per la serie giovane, per la mia, non è che la dire sì, comunque spero soltanto anche per chi mi non si finisce mai, quindi no, una raccomandazione in realtà del padre e della moglie che si nasconde le spalle in petto. Sì, un lavoro part time conciliabile con i miei impegni da genitore, d'altronde sì, insomma, come ha detto lui, era pure. Infatti ho preso la raccomandazione e mi sono avviato. Metto dentro pure questa, no, primo giorno loro. Vabbè, grazie così. Ho preso la raccomandazione e mi sono avviato e sono entrato nel cortile dell'azienda. C'era un gruppetto di persone, sembrava un atteggiamento di rivolta, e però c'erano certe facce spente, demotivate, con negli occhi proprio una sensazione di migliorare. Io sono andato dritto nella mia strada perché avevo la raccomandazione in mano, me l'aveva data il padre della moglie che si nasconde le spalle in petto, e quella rivolta avevo chiuso, no. Vedeva che mancava la guida, qualcuno che prendesse in mano la situazione e gli esortasse, ragazzi, forza, no? La rivolta che ma io avevo smesso, dritto per la mia strada. C'avevo un regalo a terra e uno striscione, appoggiato malissimo alla rete, licenziati, sostituiti e abbando. Poi lo striscione cedeva miseramente alla forza di verità. Dritto per la mia strada, la rivolta l'ho chiuso, no, l'ho smesso. Me l'aveva data il padre e la moglie che si nasconde le spalle in petto, la lettera di raccomandazione, e loro però le facce erano spente, con gli occhi di espressione, però sicuramente si vedeva che mancava una guida, qualcuno che prendesse in mano la situazione, dritto per la mia strada, perché me l'aveva data il padre e la moglie che si nasconde le spalle in petto, la lettera di raccomandazione, però quello striscione così appoggiato alla parete per il megafono per terra. Spiegatemi tutto. Ci hanno buttato fuori, Mario! Al posto nostro ci hanno messo altri! Sti pezzi del... Guarda come hanno ridotto mio cugino! Sti figli! Chi più chi meno erano anni che lavoravamo qua! E tutti professionisti! E vabbè, dai ragazzi, spiegatemi. Dobbiamo far valere le nostre ragioni. Noi eravamo grossi! Quelli di adesso Dio lo sa, se non so delle destre. Che gli ero grosso, gli aveva detto mio cugino. Quelli di adesso chi sono? Da dove erano? Come si chiamano? Amici, parenti, nipoti, cugini, che magari si lavano le mani. E il presidente con invita a cena. E forse per questo la cena a casa mia non ci sta di più. Va bene. Dai, dobbiamo far valere le nostre ragioni. Dobbiamo... Questo megafono e sistemiamo questo, anzi no, cambiamo lo striscione, l'ultimo licenziamento, no, questo sì, il prossimo, il prossimo, il prossimo licenziamento, il tuo, dobbiamo far capire agli altri che siamo, dobbiamo far capire agli altri che siamo tutti nella stessa barca, che la nostra battaglia è la battaglia di tutti. ce ne saranno 7, dobbiamo essere tutti uniti, tutti compatti. Chiediamo 7 posti di lavoro in più, chiediamo i diritti di ogni 7 lavoratori. Ma cacciamo quelle 9, no? No, ma che dite, ragazzi, bene, no, no, no, loro ormai stanno nella nostra stessa barca, ora hanno famiglia anche loro, piuttosto chiamiamoli, andiamo a chiamare, ma che come li arrivano, eccoli, sì, vengono, esempio a vicenda. Ma restai a dire. Noi volevamo solo lavorare e portare i soldi a casa. Ma la pensione, animale, che basta! Ragazzi, ma che fate? Non dove andare? No, no, non mancate quella soglia, no! Ragazzi! A Mario, vedi di andare con noi se ci vogliamo in porti. Il presidente è proprio un benedettore! E bisogna fargli un regalo, per forza! Oh, ma il tono era Natale, non era nessuno, eh! Io impasto le mani mia! Saremo sistemati tutti, eccetto... Eccetto, cioè tranne... Se saremo sistemati tutti, tranne, cioè a meno che... Mario... Ma io un giorno la farò, la rivolta, sì. Un giorno lo vincerò tutti. Un giorno saremo belli ragazzi, un giorno saremo tutti uniti, tutti compatti. E io ti voglio. Mi organizzo, allora, scusate ma